20 novembre il MIUR ha diffuso una nota attorno ai piani triennali dell'offerta formativa, che sono i piani di organizzazione della proposta formativa di ogni singola scuola, in cui viene richiesto di preparare in maniera abbastanza dettagliata una presentazione della programmazione educativa e didattica. Giustissimo questo. Il problema è che da parte del MIUR è stato precisato che da parte di molte famiglie sono sorti dei dubbi sulle modalità con le quali le famiglie devono esprimere il consenso alle attività, in particolare alle attività, quelle che non rientrerebbero nel curriculum tradizionale delle materie, diciamo, ma quelle attività facoltative che vengono approvate dal consiglio di istituto e che rientrano comunque all'interno della proposta didattica. La questione di questo consenso informato non è assolutamente neutro. Il consenso informato, diciamo che banalmente, è l'autorizzazione alla partecipazione all'attività, quella che chiediamo alle famiglie nel momento in cui facciamo un'uscita didattica fuori scuola o in cui partecipiamo ad un'attività con un esperto esterno, che però consenso viene richiesto per quell'attività votata dal consiglio di classe in corso d'anno, per l'appunto come un'uscita didattica. La questione è molto subdola, dicevo, perché dietro questa richiesta di un consenso informato stanno i movimenti cosiddetti no gender, quelli che abbiamo definito in occasione della loro presenza bolognese movimenti clerico-fascisti, che si muovono per ottenere questo tipo di richiesta, in particolare per quelle attività di prevenzione del rischio delle malattie sessualmente trasmissibili, educazione alla salute, educazione all'affettività, che vengono etichettate da loro come attività gender, di educazione gender. Se ricordate, ne aveva parlato anche Aleasso Bignami qua a Bologna, facendo una lista delle scuole bollino rosso, bollino giallo, bollino verde dal punto di vista del gender. Questo è molto problematico. In realtà il consenso informato non servirebbe per questo tipo di attività, perché o rientrano nel percorso didattico generale, come rientra l'educazione alla salute, rientrano tutte le attività di prevenzione della violenza. Ricordiamo che nel 2015 la Buona Scuola aveva presentato delle linee guida nazionali sull'educazione al rispetto per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e tutte le altre forme di discriminazione. Quindi queste attività rientrano nel percorso. In più, attività che non rientrano nel percorso didattico canonico, diciamo, ma che sono state votate dal consiglio d'istituto, rientrano nell'offerta formativa della scuola, per cui non c'è bisogno di chiedere un'autorizzazione specifica. L'autorizzazione specifica serve a questi movimenti come cavallo di Troia, diciamo, per limitare questa attività, per cui non un attacco diretto all'educazione di genere, all'educazione alle differenze, all'educazione all'affettività, ma una più subdola richiesta di scelta, cosa che fra l'altro poi creerebbe anche dei problemi, perché bisognerebbe pensare un'ipotetica alternativa a questo tipo di attività per i ragazzi, cosa che non è assolutamente possibile e soprattutto non è prevista dalla legge. Sì, insomma, è un po' come se si chiedesse ai genitori il consenso per insegnare la storia della Seconda Guerra Mondiale in Italia, piuttosto che qualsiasi altro argomento che effettivamente fa già parte del programma. Sì, esattamente, è proprio questo il punto. Il problema è che per venire incontro alle richieste di numerose famiglie, fra virgolette, qua citiamo la nota del MIUR, nell'arco di questi anni ci sono state diverse aperture. Da parte di questo governo non potevamo che aspettarci un'apertura molto forte, perché quella del consenso informato è un punto forte dal punto di vista educativo di molti movimenti di destra. Ma già nel 2017, quando al Dicastero dell'Istruzione sedeva la ministra Fedeli, ministra che si era spesa molto a parole per il rispetto delle donne, contro la violenza sulle donne, c'era già stato un incontro e una forte apertura sul punto di vista del consenso informato per venire incontro a queste famiglie, a queste associazioni di famiglie. Quindi c'è un grosso problema, perché di fatto da parte le istituzioni scolastiche c'è una tendenza a riconoscere cittadinanza a questo tipo di richieste, che sono contro l'organizzazione dell'attività didattica, sono contro le stesse linee guida del Ministero. Sì, insomma, questo governo, in cui il Ministro alla Famiglia è uno dei fondatori del Family Day, non ci stupisce più di tanto. L'ultima domanda ti volevo fare, che è su invece quale sia la situazione in generale nelle scuole italiane per quanto riguarda appunto l'educazione all'affettività e alla sessualità, nel senso che forse è un problema comunque di fondo c'è già. Sì, il problema è molto grosso. L'unico discorso, come vale per l'accoglienza degli studenti stranieri, la scuola è l'unica istituzione dello Stato che fa realmente queste cose, cioè che pur con tutti i limiti prova a mettere in campo degli strumenti che vadano in una direzione di apertura e non di chiusura, con tutti i limiti che ci sono, questo sia chiaro. Il problema grosso è sui territori, ricordiamo il caso di San Pietro in Casale, ma diversi piccoli paesi nel ferrarese ma anche in Romagna vedono misurarsi un grosso problema. I comitati contro il gender, contro l'ideologia gender, per quanto non espliciti, esistono e si muovono in maniera molto organizzata, facendo costanti pressioni su insegnanti e dirigenti, soprattutto nelle piccole città in cui gli insegnanti e i docenti tendono a essere più isolati e magari ci può essere un'attenzione minore dal punto di vista pubblico nei confronti di alcune tematiche. Il problema è che questo rallenta un tentativo che viaggia piano di provare a migliorare qualcosa, di insegnare, di provare a lavorare su un rispetto condiviso delle differenze, sulla prevenzione alla violenza che, come ben sappiamo, siamo in un ritardo molto forte, ma anche per quello che mi riguarda proprio di un'educazione all'affettività pura. Perfetto, io ti ringrazio. L'ultima cosa che secondo me è importante ricordare è che l'ideologia gender comunque non esiste, cioè è un'invenzione. Sì, esiste solo per loro e questa è la cosa molto, molto preoccupante, perché il caso di Galeazzo Bignami che citavo prima era esemplificativo, perché nella lista di scuole gender che aveva creato Bignami con altre associazioni sul genere Family Day, etichettava come attività gender anche attività di prevenzione del bullismo, di attività contro, pensa anche la violenza sulle donne, quindi è molto generico, ma il problema è che chi si professa no gender è molto organizzato, pur andando all'attacco di qualcosa che in realtà non esiste.